Buonasera a tutte e tutti, io comincio a parlare, se volete ci sono ancora un po' di posti sparsi, quindi se non volete stare lì in piedi accomodatevi pure. Con questa presentazione, quest'altro momento di incontro, di dibattito, presentiamo Jacobi in Italia come appunto nuova rivista, progetto editoriale e anche il primo numero di Jacobi in Italia intitolato Vivere in un paese senza sinistra, che è il debutto della rivista cartacea e che appunto dal 15, giorno in cui sarà nelle librerie ma anche a casa degli abbonati, sarà il trimestrale di riferimento di Jacobi in Italia, che allo stesso tempo nasce insieme ovviamente a un sito che, se qualcuno l'ha visto, comunque per chi non l'ha visto, ha una cadenza quotidiana con articoli appunto di vari temi e di vario linguaggio e respiro. Quindi introduco un po', io sono Marta Fana, con me sono David Brother, che è Jacobi in Italia ma anche già da anni editor di Jacobi, e appunto introdurrò anche il legame, il meccanismo del perché Jacobi è di cosa anche Jacobi International, poi Jacobi punto, solo che ovviamente ci serve sempre fare un po' cioè, Jacobi quale, e Sabrina Marchetti, associate, ricercatrice e anche lei redattrice di Jacobi in Italia. Appunto in un paese dove viviamo senza sinistra, perché l'idea di appunto non fare il nuovo partito politico né il nuovo movimento né l'unità della sinistra, ma decidere di fare una rivista, e tanti diranno: ma in Italia non legge nessuno, forse vi potete dedicare a una cosa più efficace, più fruttuosa. E invece no, una sfida e un'urgenza storica è proprio quello di ricominciare a discutere e di far discutere in una maniera diversa, e cercherò di esprimere molto sinteticamente che cosa significa diverso. Non soltanto noi che discutiamo continuamente, che ci arrovegliamo se vogliamo, no? Nei dibattiti di più o meno senso comune, più o meno di massa, ma sicuramente appunto un'urgenza storica che nasce appunto insieme e grazie soprattutto se vogliamo al contributo della casa editrice che promuove, che ovviamente ha fatto l'investimento anche materiale in Jacobi in Italia, che è Alegre, di dire: abbiamo, sentiamo un bisogno, lo sentiamo come pezzo di società che continua a considerarsi un pezzo di classe e non tanto una soggettività anagrafica, cioè noi giovani che non abbiamo una voce, ma proprio appunto come un blocco sociale, e allo stesso tempo che sente il bisogno in qualche modo di sprovincializzare una forma di dibattito di vari temi che hanno tutti una chiave politica, che si parli di serie TV o che si parli di processi elettorali, che si parli di processi sociali, che si parli di lotte che esistono, di lotte che invece devono e dovrebbero esistere, e quindi in che modo si sostengono, si fomentano, no? Si direbbe a Roma, i processi culturali che poi diventano, se vogliamo, la cassetta degli attrezzi attraverso cui cose, persone, soggetti che non sono né organizzati né esplosi in forme più o meno conflittuali riescono a dare invece un contributo. Quindi da un lato questa esigenza di come dire, porsi in un, non con arroganza ma in alto rispetto a quello che è il dibattito corrente, no? Che poi spesso il dibattito politico ci è diventato sottomano un gossip, e dove anche la partecipazione e la presa di parola a questo dibattito politico è spesso e volentieri soltanto la battuta o il commento di 150 battute, spazi inclusi, sui social network. Questa cosa non ci basta più, ma non basta non soltanto a noi come soggetti individuali, non basta anche in qualche modo per il momento storico in cui ci troviamo. E allora perché decidere di fare appunto con questo obiettivo di avere uno sguardo alto e profondo dei temi, dei fenomeni da affrontare attraverso una chiave di lettura specifica? Questa chiave di lettura specifica, l'intuizione non esterofila, era: facciamo un qualcosa all'inizio alla Jacobin. Poi fortunatamente siamo riusciti a fare Jacobin in Italia. E perché Jacobin e non un'altra qualsiasi rivista, perché di riviste ce ne sono a centinaia a livello internazionale, perché Jacobin nasce in qualche modo da come noi da lettori l'abbiamo acquisito, proprio, come dire, con quell'esigenza di ridare una chiave di lettura di parte e che non è una parte qualsiasi, se vogliamo, del pensiero politico, ma è una parte che dice abbiamo bisogno e sentiamo l'esigenza anche oggi, soprattutto oggi, di una chiave di lettura che si rifonda a quelle che erano le teorie e le dottrine socialiste, quindi in termini teorici marxiani, di riscoprire cos'è il materialismo storico applicato proprio alla narrazione di talk show. E uno dirà, boh, è una cosa che non c'entra niente, invece sì, perché i talk show in realtà sono delle forme rappresentative mediatiche di un sistema, se vogliamo, di rapporti di rapporti di produzione sociale, si direbbe in gergo. E quindi allo stesso tempo, perché Giacobbi, oltre alla chiave di lettura, anche per il tipo di linguaggio che utilizza, perché appunto parlare di Marx in modo difficile, no? Non siamo sufficienti a noi stessi, ma ci riusciamo se vogliamo parlare solo a noi stessi. Giacobbi invece riesce a parlare di cose che sembrano molto difficili con delle forme di linguaggio molto accessibili, moltissimo accessibili, e quindi anche utilizzare degli strumenti narrativi, ma anche gli strumenti teorici che invece siano fruibili. E questo, no, è uno dei grandi meriti, una delle cose appunto che destano in qualche modo quella scintilla che ci ha fatto anche scegliere che fosse il caso più interessante da acquisire, quindi con cui collaborare. Qualcuno della redazione aveva già pubblicato per appunto la rivista internazionale, non a caso. E su questo appunto avrà gli altri due passaggi, sono veramente molto sintetiche nell'inquadrare la situazione, poi appunto magari ci saranno mille domande e curiosità. Ci sono altri due che sono da un lato un'ambizione, no? Come diceva anche Panzieri, se non c'è la voglia di vincerla, la battaglia perché la facciamo? No, questo come è sempre un obiettivo, non si gioca a perdere, se non ce la diciamo non è vera. E allora qual è l'obiettivo in questo caso? È un obiettivo egemonico. Un obiettivo egemonico che significa appunto riportare dentro una discussione non soltanto quei dibattiti che ci hanno detto che non si potevano fare, che nessuno avrebbe più capito, non è vero. Non è vero perché guardiamo anche esperienze all'estero che, parlando appunto di conflitto sociale, di capitalismo, capire quali sono i nessi e i meccanismi di quella cosa lì, ha il 40%. Mentre noi che siamo appunto residuali, in mezzo alle macerie, ci diciamo che non ne possiamo parlare, no? Che sembra quasi una coazione sempre aperta. Quindi da un lato appunto la possibilità e l'ambizione di parlare ad ampie fasce della società e anche a chi appunto non è un addetto ai lavori, chi non è un soggetto già militante, ma che comunque si pone delle domande. Si pone delle domande che sono appunto, si diceva oggi, che abbiamo fatto prima in redazione, primordiali. E qui sta il nesso, nel sapersi porre delle domande e nel riuscire a costruire delle risposte. Che non sono date, perché appunto no, la storia è fluida, si muove costantemente. Allo stesso tempo una tensione che è anche un'enorme sfida per un progetto che appunto si costruisce attorno a una redazione molto diversa, di soggetti che hanno storie diverse, che hanno competenze, interessi diversi, ambiti diciamo di interesse sia lavorativi sia culturali sia molto diversi tra loro, appunto tenerli insieme proprio per creare, come dire, quella consistenza e quella ricchezza dentro un dibattito che non può essere semplificato e quindi deve affrontare e aggredire la complessità delle cose attraverso un linguaggio molto fluido non è una parola che mi piace, da molto accessibile, fruibile, ma allo stesso tempo che sappia avere sguardi diversi alle cose. Una delle cose su cui ci interroghiamo sempre, siamo quasi sempre, come dire, molto vincolati, abbiamo rispettato l'equilibrio di genere nelle cose che diciamo, ma non per utilizzare un feticcio perché fa bene tenere, no, la quota rosa, ma perché è uno sguardo diverso che in qualche modo completa e arricchisce la visione del mondo. E questa cosa non è appunto da confinare al sì, ok, c'è il pezzo sull'equilibrio di genere, ma interseca tutte le discussioni, tutti i temi e i fenomeni sociali che vogliamo affrontare. Chiudo su una cosa che poi appunto no, sembra difficile dircela, su cui appunto questa tensione interna e anche appunto i commenti che riceviamo, le cose che chiediamo come commenti, no? Diciamo sempre commentateci, fateci sapere se più o meno era quello che vi aspettavate o altro. È vero che in questo paese, in questa fase storica, ma che è lunga, non è una fase storica diciamo contingente di poche ore o pochi mesi, effettivamente nel racconto e quindi nella costruzione culturale, nella descrizione, nelle chiavi di lettura, se vogliamo, politiche dei fenomeni della società, manca qualcosa. Quel qualcosa è che hanno sempre, come dire, anche la cultura, la descrizione e chi ha avuto il potere di manovrare la cultura è sempre stato qualcuno che ha raccontato altri pezzi di società e fenomeni da cui era completamente separato. Pensiamo a Michele Serra quando parla dei precari, no, cioè, che è effettivamente una contraddizione in termini, e invece c'è, no, un'ampia fetta della società che è trasversale ai generi, alle generazioni, alle nazionalità, quindi alla cittadinanza, che ha voce. Quindi una delle cose che ci siamo detti tra le prime volte che ci siamo incontrati è restituire, se vogliamo, la parola a generazioni e pezzi di società afoni. Cioè qui questa parola è stata sottratta, cioè che urlano, noi non li riusciamo a sentire perché non c'è uno sbocco. E questo appunto è un tentativo da un lato molto ambizioso, da io sono una persona molto irriverente, chi mi conosce sai, sono anche a volte sprezzante nel dire tanti dicono, ma dovreste fare così o così, io dico sempre a tutti, se voi ci avete provato, avete fallito, facciamo che ci pensiamo e vediamo di fare in modo diverso, anche, come dire, mettendoci molto in discussione perché è una sfida, però proviamo a utilizzare queste contraddizioni per creare qualcosa di più, qualcosa di altro, che possa resistere dentro queste contraddizioni molto complesse, che a volte appunto non riusciamo ad affrontare da soli perché non siamo sufficienti a noi stessi. E questo forse è il pregio della ricchezza di aver messo insieme persone molto diverse con un aggancio internazionale molto forte, passo subito la parola a David, ma avendo più o meno non un modello da importare ma molto più da studiare, che è appunto Jacobi. Ciao, ringrazio tutti voi per essere venuti e venute. Tipo due settimane fa la Casa Bianca ha pubblicato La stroncatura al socialismo, un documento di 72 pagine, in cui hanno anche menzionato la nostra rivista. E siamo rimasti molto contenti, orgogliosi di essere il bersaglio di Trump. È vero che nel mondo anglofono la nostra rivista, tipo fondata nel 2010, è diventata la rivista socialista più letta nel mondo anglofono. Ovviamente tipo da noi la parola socialismo non ricorda Craxi o climi infami, quindi non rimaniamo imbarazzati su questo fronte. Però comunque abbiamo una certa sensibilità anche alla storia di questo paese. Non solo nel senso che ovviamente ci interessiamo alla storia tipo di Gramsci e via dicendo, però anche perché per molti dei redattori di Jacobin è stato in qualche senso formativa l'esperienza dei primi anni 2000, in cui sembrava che si succedesse qualcosa davvero inedita in Italia, no? A tempo tipo del G8 di Genova, il movimento contro la guerra in Iraq, i centri sociali, e in particolare l'articolazione tra i nuovi movimenti e un vecchio partito comunista o un ex partito comunista, rifondazione, che sembrava legare un po' lo spirito dei movimenti, però anche l'attività al piano elettorale. E in questo senso sembrava molto diversa l'esperienza italiana di quelle ad esempio francese o tedesco, partiti quali Die Linke o Partito Comunista Francese. Però forse questa la speranza che nutrivamo in quei tempi mostra un po' i problemi di sperare di imitare un modello straniero, no? Nel senso che se allora ci sembrava che la sinistra italiana fosse una fonte di speranza, adesso si deve riconoscere che è tra le più debole in Europa, no? Non so a livello dei numeri o dei risultati elettorali, però ovviamente le sconfitte subite, anche la repressione, hanno provocato anche una crisi anche culturale, no? Tipo, adesso vediamo un po' la frammentazione, uno spirito un po' difensivo, il fatto che molti tipo si ritirano dentro recinti identitari, perché sembra più che mai difficile che la sinistra progetta una visione dell'avvenire di questo paese. E stranamente sono i partiti di destra, o almeno tipo forze populiste, che hanno accaparrato il discorso di cambiamento, di trasformazione, anche in chiave molto finta. E questo produce anche un tipo di subalternità culturale in cui si guarda all'estero cercando il modello da imitare o la soluzione rapida, no? Se si pensa ad esempio al modo in cui molti compagni si sono confrontati con l'esperienza di Syriza in Grecia qualche anno fa, forse anche adesso con Podemos, o forse soprattutto tipo quando si vede che Maurizio Martina è andato a Londra per incontrare Jeremy Corbyn, questo può creare qualche perplessità. Qualcuno. Okay. Però in questo momento è vero che ci sono delle esperienze anche tipo in Inghilterra e negli Stati Uniti, dove abbiamo avuto occasioni inedite di parlare del socialismo, una parola che era una parolaccia è tornata o in un certo senso per la prima volta arrivata sulla scena politica. E quindi in questo momento al centro del nostro discorso di Jacobin è il fatto che la storia non è finita e che non è solo l'estrema destra a contestare l'attuale ordine liberale. Non è facile trovare le vie d'uscita, e questo è anche, forse soprattutto, vero in questo paese. Tipo in Inghilterra, noi di Jacobin abbiamo lanciato una nuova rivista, Tribune, il mese scorso, in un contesto di forte ebollizione politica, in cui si vede non solo un cambiamento nell'ordine parlamentare, però anche una mobilitazione importante della gioventù. Al di là dei molti limiti politici, programmatici del Partito Laborista, è ovvio che qualcosa si cambia, che c'è almeno la scintilla di speranza di organizzazione. Alle elezioni politiche dell'anno scorso il 61,5% degli under 40 hanno votato per il partito di Corbyn. Questo fatto deve alla partecipazione di anche tipo nel partito, nei movimenti legati al partito, di ragazzi ventenni preoccupati del loro avvenire, dei problemi di pagare l'affitto, di trovare un lavoro o anche di poter avere le stesse aspettative dei loro genitori. E quindi il ritorno o l'arrivo di un discorso di conflitto ha anche alimentato una ripresa nei movimenti per la casa e nel mondo del lavoro. E quindi lì, in quel contesto, prendiamo uno spunto di questa ondata, ma speriamo anche di andare oltre, di contribuire con le nostre idee e dare un po' di orientamento nostro. E si vede in molti sensi la stessa cosa negli Stati Uniti, anche partendo da una base molto ristretta, no? Nel senso che è un paese senza la storia di un partito operaio, partito comunista, dove anche la coscienza di classe è sempre stata molto limitata, e in cui tipo le divisioni razziali hanno sempre avuto un effetto molto pesante sulla possibilità di creare movimenti contestatori o di esperienze politiche. però lì abbiamo in qualche senso sfruttato una convergenza di circostanze negli anni scorsi. Come ho detto, la rivista venne fondata nel 2010 da Bhaskar Sunkara. Lui è di New York, però di origini di Trinidad, e lui all'età di 21 anni ha fondato una rivista in un contesto molto difficile, no? Tipo il titolo del tema del primo numero di Jacobi in Italia è Vivere in un paese senza sinistra. E anche questa era un po' la sfida negli Stati Uniti di 8 anni fa, no? Tipo, anche nei primi anni della crisi c'era stata l'elezione di Barack Obama, questa soluzione liberale del Partito Democratico, e sembrava che non sarebbe stato possibile anche pensare a creare qualcosa di diverso, di superare l'idea che la storia è finita e che dobbiamo tutti accettare il liberalismo come il solo orizzonte possibile. Però le cose sono cambiate. Prima, tipo, c'è stato il movimento Occupy Wall Street nel 2011, ovviamente anche tipo il conflitto, la violenza poliziesca, anche il suo aspetto razzista, hanno anche alimentato altri movimenti molto importanti, tra cui Black Lives Matter. E questo ha un po' non ha condotto in modo automatico al movimento di Sanders, però senz'altro ha creato una scintilla di conflittualità e ha esacerbato le delusioni provocate dall'amministrazione di Obama. E quindi negli ultimi anni abbiamo visto non solo ovviamente il fatto strutturante della politica americana, tipo la scelta di Trump, però anche quella di Sanders, e questo è, nonostante tutti i limiti di Sanders, e ci sono molti, questo ha creato uno spazio politico in cui le persone, soprattutto i giovani, hanno iniziato a chiedersi: ma che cos'è il socialismo? Si può cambiare la società e di liberarci in qualche senso dell'ideologia della guerra fredda, dell'anticomunismo, del liberalismo e via dicendo. E quindi la nostra rivista ha in qualche senso utilizzato questo spazio per parlare ad un pubblico sempre più grande. Quindi adesso, ovviamente essendo un trimestrale, non ha un pubblico di massa, però tipo abbiamo 40.000 abbonati sul sito, tipo più di 1 milione di click ogni mese. Ovviamente in Italia la sinistra o anche le forze progressiste hanno saputo dare voce alle stesse frustrazioni, allo stesso sentimento di abbandono. E in questo paese, certo, abbiamo subito non solo 10 anni di crisi, però una stagnazione che risale ai primi anni 90. La rabbia, il malcontento c'è, ma queste passioni possono anche avere risvolti reazionari se non esiste un'alternativa basata sulla speranza, sulla promessa dell'avvenire, di progresso sociale, di ripristinare questo paese anziché lasciarlo abbandonato o strangolato dal debito. Ovviamente non dico tutto questo per spiegare agli italiani che l'Italia fa schifo. Questo non è il mio... Lo sappiamo. Sì, appunto. Anche molto bello, no? E non è che voglio calare sul contesto italiano qualsiasi modello americano, inglese, anche perché al momento di provincializzare il dibattito si deve, al momento di riflettere seriamente su queste esperienze, si inizia anche a capire la necessità di andare oltre tipo la superficie mediatica e di capire i limiti, anche ad esempio il fatto che queste esperienze sono molto verticalistiche, no? Verticistiche. È il fatto che alla fine non è che Sanders o Corbyn o Vincent abbiano conquistato i loro partiti, c'è una lotta molto difficile anche per loro. Però lanciamo questa iniziativa in Italia assieme, come l'ha detto Marta, anche tipo assieme a persone che vengono di molti pezzi, esperienze diverse, no? Anche con la voglia di un po' andare al di là ogni divisione, ogni differenza di cultura politica che può esistere. E, tipo, non siamo quelli che fanno un patto elettorale per qualche mese per poi litigarci dopo. Invece vogliamo creare qualcosa un po' al di sopra, uno spazio culturale di confronto, di iniziare a ripensare quali sono i modi di uscire dalla crisi, della situazione drammatica in cui ci troviamo. Infatti non è che creiamo un nuovo partito, una nuova tendenza, una nuova area, però si deve riconoscere che ci troviamo in una situazione molto disastrosa, no? Forse anche all'inizio di un periodo di egemonia delle destre di 10-20 anni. E proprio per questo motivo, anche di più, okay. Quindi io sono ottimista, quindi dico 10 anni. Dipende sempre da noi comunque, quindi qualsiasi sia il tempo. Però non è per caso che il titolo del nostro primo numero è Vivere in un paese senza sinistra. Siamo all'anno zero, ma dobbiamo trovare il linguaggio, la volontà di andare oltre i recinti identitari e creare uno spazio in cui riflettere su motivi del disastro e i modi di andare oltre. Sulla terza pagina della rivista c'è una bella citazione di Antonio Gramsci. Non è che mi piace fare il santino di Gramsci, però comunque c'è un bel po' da insegnarci, no? E in questa citazione dal 23 dice che bisogna fare una spietata autocritica della nostra debolezza, incominciare da domandarsi perché abbiamo perduto, chi eravamo, cosa volevamo, dove volevamo arrivare. Bisogna prima fare anche un'altra cosa. Bisogna fissare i criteri, i principi, le basi ideologiche della nostra stessa critica. E questa idea, questa volontà egemonica che ha finora ispirato cosa facciamo negli Stati Uniti, e spero che faremo così anche con il nostro progetto Jacobi in Italia. Buonasera, salve a tutti e tutte, io sono Sabrina Marchetti e, come accennava prima Marta, sono una delle persone che fa parte di quella che chiamiamo la redazione di Jacobi in Italia. Ora, uno dei miei compiti è di introdurvi anche un pochino a come funziona questa redazione, ma lasciatemi partire con una riflessione personale, un aneddoto personale, come altre di noi che ora fanno parte della redazione, ho ricevuto questa chiamata prima dell'estate, in cui, se non avessi riconosciuto la voce di Giulio Canella, perché ci eravamo già conosciuti personalmente, avrei sicuramente pensato che era uno scherzo telefonico. Ciao, vogliamo fondare Jacobi in Italia, ne vuoi fare parte? E appunto, quando ho dato la lettera, ho pensato che uno scherzo telefonico era una chiamata delirante di un progetto che chissà forse non sarebbe mai partito, e c'è stata una riunione di redazione molto ampia, appunto redazione molto partecipata, prima dell'estate a Roma, e io per il resto in cui ci siamo dati questo tema, vivere in un paese senza sinistra, che è stato deciso collegialmente fra altri temi che erano stati lanciati, e io per tutta l'estate ho aspettato una fatidica mail in cui si sarebbe con scritto: scusa, ci abbiamo ripensato perché ci siamo resi conto che in fin dei conti non ci si fa, ne riparliamo verso Natale. E invece no, si è andati avanti, è arrivata la mail: manca poco, dov'è il tuo pezzo? E quindi diciamo già questa caparbietà, non so se è folle o è sicuramente forte e determinata, è sicuramente una delle caratteristiche di questo progetto fin dall'inizio. Che cos'è questa redazione? È un insieme di credo una ventina di persone, finora lo trovate già sul sito, trovate tutti i nomi, ma li ritroverete anche nella rivista. All'interno di questa redazione c'è poi quello che viene chiamato il desk, che è un gruppo di 5 persone, 6 persone, che sono quelle che combattono con questo progetto folle su base diciamo più quotidiana, mentre noi altre che facciamo parte della redazione abbiamo una partecipazione, se vogliamo, più lasca, più a seconda delle esigenze, ci coinvolgiamo in bellissimi dibattiti di pagine e di pagine di pagine di mail, giorno e notte. Tra le persone fortunate che fanno parte di questa conversazione, oggi qui ci sono presenti fisicamente Francesca Coino, oltre a Giulio Calella che ho appena nominato, e Francesco Massimo, Lorenzo Zamponi, Vumi 1 e Simone Fana. Altre persone, chi altro c'è? Giuliano è andato via, Mose è andata via, Gaia Benzi è andata via, c'erano varie persone che sono venute per la riunione di ieri e di stamattina, ma che appunto non sono qui adesso, ma altre, quelle che ho nominato, sono anche qui, quindi se volete far loro delle domande ci sono. Perché è bello questo progetto? Dal mio punto di vista strettamente egoistico, mi ritrovo nella cosa che diceva Marta prima, dare voce a dibattiti, discorsi, riflessioni afone. Nel mio caso più particolare, quello che ritrovo è la possibilità non tanto di una voce, che diciamo fortunatamente non manca, ma più che non nel mio caso personale, però per i dibattiti femministi, ma una voce che non sia utilizzata, che non avvenga in ambiti separati, cioè cercare di smontare quella compartimentazione dei dibattiti, delle riflessioni, come appunto se di genere e delle cose di cui ci occupiamo noi femministe di solito si parli solo nelle riviste, nei siti, nelle newsletter, nei siti web femministi, e questo non riguardi l'editoria in senso più ampio o comunque la riflessione politica in senso più ampio. Nella redazione di Jacobi mi sto trovando un luogo dove invece è assolutamente degno e a pieno titolo una riflessione sulla questione della riproduzione sociale, in particolare quella che abbiamo proposto io e Sara Fatis per questo primo numero, e sarà probabilmente una delle riflessioni che porteremo avanti con i prossimi numeri di cui abbiamo discusso in questi giorni. Quindi la tematica della riproduzione sociale è una tematica che riguarda tutti, non riguarda solo le femministe, riguarda solo le donne, riguarda anche gli uomini e anche chi non si ritiene di essere né femminista né niente di tutto ciò. Quello che abbiamo fatto noi quindi è di proporre una riflessione sul tema della cura. Allora, se diciamo che con riproduzione sociale si intende più in generale le condizioni materiali e simboliche per la riproduzione, proprio di definizione ABC, per la riproduzione della forza lavoro e della società nel suo complesso di generazione in generazione, poi con cura abbiamo il tema dell'accudimento affettivo, fisico, materiale, a volte di tipo medico-sanitario, dei corpi, delle persone e nella relazione con persone malate o vulnerabili, e in particolare dei bambini. Ora, quando abbiamo lanciato il tema vivere in un paese senza sinistra, dal punto di vista della cura, immediatamente questo chiama la domanda del welfare, di quello che viene chiamato welfare. E si ricollega a un discorso condiviso da più parti, che è quello che va sotto l'etichetta molto usata oggi di crisi del welfare. Ora, a me questa è un'etichetta che è a pelle antipatica e poi da ogni antipatia a pelle Paola cerca di capire perché questa cosa a pelle ti sta antipatica ed è perché penso che in Italia parlare di crisi di welfare sia una formula abbastanza ipocrita in un paese in cui questo welfare forse non c'è mai stato. Qualcosa per essere in crisi ci deve essere stato e quindi è una di quelle etichette di cui ci appropriamo abbastanza passivamente forse da un dibattito internazionale mitteleuropeo, nordeuropeo, dove forse un certo tipo di welfare ci sono stati e poi sono entrati in crisi e noi un po' così ce ne appropriamo anche sulla base di una serie di pubblicazioni e di riflessioni che vengono a circolare. In Italia un vero e proprio welfare dico non c'è mai stato perché ci sono stati degli esperimenti delle politiche soprattutto nel nord Italia che quindi hanno tagliato fuori tanto altro di popolazione italiana e parlare di crisi del welfare in alcune parti d'Italia è quasi una presa in giro e anche perché gli esperimenti che ci sono stati i più belli forse tra gli anni 70 in particolare sono stati molti esperimenti dal basso, esperimenti di persone che si sono organizzate anche su base di quartiere o di quelli che venivano appunto all'epoca fondati come centri sociali, come associazioni eccetera, di condividere la cura dei bambini in particolare, di organizzare asili nido e scuole oppure rispetto alla questione della malattia mentale. E tutti questi esperimenti, non tantissimi numericamente ma sicuramente degni di nota e dovrebbero essere ovvio dirlo, un esempio da riprendere, sono naufragati, sono stati lasciati naufragati, sono stati abbandonati e in Italia possiamo dire che grosso modo, al di là di alcune esperienze regionali, più ovviamente siamo a Bologna, quindi è un contesto molto diverso rispetto a quello romano o di altre parti d'Italia che conosco io, quindi diciamo posiziono sito quello che sto dicendo fortemente, ma diciamo che in generale si può dire che in Italia si è passati dalla famiglia a direttamente al mercato. Cioè il famoso, quello che viene chiamato in questi dibattiti, il diamante, Stato, mercato, terzo settore, che include anche associazionismo cattolico, eccetera, Stato, mercato, terzo settore e famiglia, in Italia invece il passaggio per lo Stato non c'è stato, ma è stato dalla famiglia al mercato. Il mercato cos'è? Il mercato è dalla badante che la singola famiglia, un nucleo familiare, poi in Italia si dice famiglia anche quando una persona singola da sola che non c'ha un amico, non c'ha un parente, però si dice famiglia, e comunque questa persona anche singola impiega un'altra persona secondo logiche di mercato, quindi logiche basate sull'acquisto di un servizio. Ora quello che noi diciamo, e chiudo brevissimamente in questo articolo che troverete, è qualcosa, cioè quello che segnaliamo è qualcosa che va in più questo processo di mercificazione della cura, che è un processo di vera e propria, in inglese lo diciamo corporatization of care, o dopo che ha parlato il brother in inglese io mi sento in imbarazzo comunque, di aziendalizzazione, l'abbiamo tradotto, della cura. Quello che sta succedendo è che quindi le logiche di mercato da una parte si appropriano degli ideali familistici perché così riescono a vendere meglio quel prodotto che rientra in degli ideali basati sull'accudimento costruito nella sfera domestica, rigidamente diviso secondo ruoli di genere e che riproduce il ruolo della madre, della sorella, della nonna nell'ambito familiare anche quando la persona che offre questo servizio non è legata da un legame familiare in senso stretto. Ma mentre si appropria dell'eredità della tradizione familistica, al tempo stesso invece sta cambiando fortemente i modelli di cura. Questo lo fa introducendo delle logiche di tipo aziendale, di tipo for profit, quindi basate sull'efficienza della produzione, sulla riduzione dei costi, la minimizzazione dei costi al più possibile nel modo in cui la cura viene fornita. Allora non so quanti di voi hanno esperienza di come funzionano i servizi di cura forniti dalle cooperative sociali e anche da aziende private come per esempio Privata Assistenza, una delle più diffuse in tutta Italia con franchising. Queste sono persone che arrivano con un tablet, non so se magari qualcuno di voi ha fatto in passato, conosce persone che fanno questo lavoro, è un tablet per cui bisogna entrare nella casa delle persone e fornire dei servizi di cura facendo quei click dopo che li si è fatti e che per esempio dicono che per lavare una persona anziana non ci puoi mettere più di 8 minuti, per dare le medicine non più di 2 minuti, per cambiarla completamente non più di 15 minuti. Dopo che hai fatto questi compiti la macchinetta stessa emette una, diciamo, una sorta di ricevuta di scontrino che poi viene allegata alla pratica e determinerà l'importo che a fine mese la persona accudita pagherà direttamente o che sarà pagata alla cooperativa o l'altro, qualsiasi altro ente che abbia vinto un bando di gara attraverso fondi municipalizzati. E tutto questo ci fa vedere come il nostro approccio alla cura, a una sfera che prima era rigidamente divisa dall'ambito del mercato, dall'ambito del pubblico, nel senso anche simbolico, invece entra in modifica come noi pensiamo questa cosa. Se adesso chiedo a qualcuno di voi quanto ci metti di tempo a dare la pappa al bambino, mi saprà dire quanti minuti. Faccio un esempio banale. Ci metto su per giù 8 minuti, quando noi sappiamo che invece pensare in termini di minuti, un pacchetto di tempo, un pacchetto di azioni, ogni azione è collegata a una tempistica per quello che riguardava la sfera della cura, la sfera dell'erogazione, dell'affettività, dell'accudimento, era prima inconcepibile. Ora sta diventando concepibile grazie proprio all'interessa nell'oggi di mercato e di capitale in un ambito prima costruito in opposizione a esso. Va bene. Diciamo che Sabrina ha esposto un po' sia la complessità, sia l'attrattività, sia una multidimensionalità di fenomeni che sono quotidiani, che viviamo tutti e che però hanno bisogno di una chiave di lettura, perché appunto ci arrivano addosso attraverso delle retoriche e una spiegazione anche del cosa e del come questi fenomeni vengono governati di fatto. Perché decidere che la cura dei bambini o degli anziani non sia sotto un controllo, una gestione pubblica e democratica, ma sia in qualche modo delegata al mercato che ha l'ambizione sostanzialmente di fare i profitti, è una scelta diversa. E allora un po' su questa, dentro questa discussione, tutto il resto di questo primo numero del vivere in un paese senza sinistra, anche come dire, ci siamo chiesti appunto quali potessero essere, no, quei meccanismi, quelle chiavi di lettura del presente diverse. Allora, ad esempio, piuttosto che farci irrigidire, nonostante abbiamo molte, anche forse troppe cose da dire inascoltate sul tema dell'immigrazione, abbiamo preferito parlare dell'immigrazione degli italiani in questo paese che vivono in un paese senza sinistra. O allo stesso tempo, piuttosto che dire sì, ma sono 10 anni dalla crisi e il PD non ha fatto niente, no, in realtà il PD non fa niente dal 92, anzi ha fatto fin troppo proprio in quel momento di crisi, di cambio strutturale di questo paese. Quindi non è una crisi degli ultimi 6 mesi, degli ultimi 10 anni, ma di 32 anni. Allora l'abbiamo chiamata crisi dei 30 anni, no, per avere un'attrattività, ma in realtà è una crisi di 40, quasi 6-7 anni. Allo stesso tempo, appunto, dentro, poi appunto racconto il numero velocissimamente, poi vi deve venire la curiosità, ve l'andate a leggere, non so come dire, quindi apro alle domande. E poi però appunto mischiarci sui linguaggi, quindi l'immigrazione analizzata da Simone e Francesco e allo stesso tempo raccontata da uno dei nostri compagni, amici che sta in redazione, Alberto Brunetti, che di fatto ha vissuto da scrittore, poi lo è diventato dopo, ma prima era proprio un lavoratore delle pulizie, è emigrato a Brighton e così via. O allo stesso tempo le inchieste, andare a parlare e sentire cosa ci dicono lavoratori, delegati che hanno, come dire, riacquisito il controllo delle fabbriche, come è successo appunto vicino Milano e di cui se ne sono occupate Francesca Quinn e Piero Maestri, anche là quella voce che c'è mediata o da Di Maio o da Calenda, no? Forse i lavoratori, anche se votano PD, Movimento 5 Stelle, magari appunto non sono esattamente le persone che frequentiamo tutte le sere, hanno qualcosa da dire, perché poi in realtà noi frequentiamo quella gente, perché non è vero che, no, appunto, chi ha i figli non vive la complessità di avere genitori immigrati che sono quei lavoratori esternalizzati e così via, che vengono schiacciati verso il basso. E non c'è nazionalità che tenga, cioè o sei sfruttato o sei sfruttatore, cioè, non so, sapete, perché questo è un mio vizio di forma nell'affrontare i problemi della società. E dentro anche magari, appunto, piuttosto che la vera ironia sprezzante su questo tema, un Alessandro Robecchi molto emotivamente quasi pessimista, ma neanche troppo. Quindi, come dire, no, questa ricchezza di analisi, di temi, di linguaggi che si mescola. E invece Giuliano Santoro che ci spiega appunto un po' come la televisione, questi modelli culturali che ci hanno imposto, mentre ci hanno detto che da 30 anni che c'erano dalla magistratura alla televisione i comunisti al governo. E io tante volte non li ho mai visti i comunisti al governo, dico ma magari, chissà come sono i comunisti al governo. Eppure in realtà si è costruita, no, una retorica per cui la televisione pubblica, ci sono i comunisti e li dobbiamo far fuori. E in realtà nella realtà delle cose è andata molto diversamente, no? E quel cortocircuito per cui Casalino oggi, che è una delle persone più influenti, però era, no, la sapete la storia su meglio di me probabilmente. E il pezzo di David invece è anche quello di altri due componenti della redazione, che ci ricorda una cosa: è vero che in Italia abbiamo le nostre particolarità storiche, politiche, contingenti, però non è vero che siamo l'unico paese complesso e quindi non aggredibile. E quindi l'Italia come laboratorio di sperimentazione da un lato delle politiche di austerità e dall'altro, se vogliamo, no, del populismo che non è arrivato ieri, ma già Berlusconi, se vogliamo, secondo tanti di chi si occupa di questa roba, io acquisisco acriticamente, ecco qui magari sbaglio, la concezione per cui era già un populista, no, liberale, tutto. O dall'altro lato il tema del debito pubblico, no? Debito pubblico come fardello, come è davvero, no, il tratto distintivo dell'Italia. In realtà no, perché il debito pubblico esiste e la funzione del debito pubblico esiste a livello internazionale e ha cambiato forma appunto in un assetto storico che cambiava tra che cosa voleva il capitalismo e che cosa ha chiesto allo Stato. E allora lo Stato ha deciso di entrare in quella crisi fiscale dello Stato che ci spiega O'Connor, ma anche Streck e altri, no, che comincia a togliere i soldi alla spesa pubblica per fare e creare materialmente l'esigibilità dei diritti universali, che sono la cura, che sono la mobilità pubblica, che sono la scuola, che sono la sanità e così via, per darli sostanzialmente, no, o ai profitti e quindi in qualche modo sostenere una crescita drogata, o davvero, cioè, buttati via. Allora quella cosa per cui giustamente David dice, ma a livello internazionale dire socialista non è un problema, da noi ci imbarazza molto, perché gli anni 80 sono stati un attimino un momento problematico. Quindi ecco, cioè, come dire, sì, è una sfida, però noi siamo molto contenti di questo primo numero del mondo in cui queste chiacchiere si mettono insieme davvero tra persone che anche lì non necessariamente fanno parte di pezzi, di storie, eccetera. Sono soggetti che però avevano qualcosa da dire e da coltivare costruttivamente insieme. Scusate, ho cercato di buttarmi un po' di curiosità, magari mi hanno annoiato di più. Quindi passerei a voi la parola per domande e curiosità. Ricordate appunto che ci sono anche altri membri della redazione, se volete, cioè interagiamo tutti, ecco, siamo qua solo in rappresentanza temporanea. Continuo io? No, ah no, appunto, continuo. Io sono logorroide e tutti lo sanno, quindi non è un problema se mi decontinua. Io sono Giulio Calella di Alegre, l'autore della telefonata delirante che raccontava prima Sabrina. No, ci tenevo a dire, cioè, del perché ci siamo buttati un po' in questa avventura, di cui con molto entusiasmo e tra l'altro anche con un'attesa, diciamo, inaspettata e che comunque è incoraggiante. Cioè, siamo già arrivati a quasi 1500 abbonati prima di essere usciti, e per chi conosce un po' il mercato editoriale delle riviste cartacee è già una cosa incredibile, diciamo, perché stiamo parlando di un prodotto che ancora non è uscito. E l'abbiamo fatto, cioè, a me piace collegare anche un po' questo tentativo di questa rivista anche con questo festival, che tra l'altro stasera concludiamo, e con il titolo che abbiamo dato a questo festival, cioè Contrattacco. Infatti sono molto contento anche che la riunione di redazione che abbiamo fatto in questi due giorni per progettare i prossimi numeri è venuta qui, in un festival che ha coinvolto comunque centinaia di persone in questi giorni, che è stato anche qui bello, che si è visto che c'è un bisogno. Gli abbonati che stiamo ricevendo, l'attenzione che stiamo ricevendo, la partecipazione di questi giorni dicono che un bisogno c'è. E questa è un po' la cosa che ci ha motivato. Quello che in qualche modo manca, che secondo noi manca, che abbiamo in qualche modo provato a prendere in prestito anche dalle compagne americane, è la credibilità di costruire o ricostruire, diciamo, un discorso, una visione del mondo dopo proprio, possiamo dire, la fine del movimento operaio novecentesco, delle organizzazioni tradizionali e della sinistra politica. Una vera e propria fine con cui in qualche modo dobbiamo fare i conti, e per questo abbiamo titolato il primo numero Vivere in un paese senza sinistra. E l'abbiamo fatto, guardate, sottolineando la parola vivere. Non troverete mai nominate praticamente la sinistra politica in un numero che titola Vivere in un paese senza sinistra. Abbiamo detto proprio, non ci interessa parlare della sinistra politica in questo momento, ci interessa di parlare di cultura, di produzione, di riproduzione sociale, di nuovo immaginario da costruire. E questa è un po' l'ispirazione, diciamo, della rivista Jacobin. Appunto, come diceva David, non c'è un modello da importare. Quello che succede negli Stati Uniti adesso, anche politicamente, non c'entra nulla, ovviamente, con un paese che ha una tradizione politica completamente diversa, che ha avuto il partito comunista più grande d'Occidente, eccetera, e che pure si ritrova in una situazione, se volete, simile a quella che forse gli Stati Uniti hanno vissuto nell'ultimo secolo, cioè di vivere in un paese senza sinistra. E l'ispirazione della testata, diciamo, Jacobin, quindi di in qualche modo tornare alle origini, le origini di cambiamento radicale dell'esistente, e anche il richiamo forte a non solo alla rivoluzione francese, non solo e non tanto alla rivoluzione francese, ma a quella dei Giacobini neri, la rivolta degli schiavi haitiani contro l'esercito napoleonico, diciamo, tanto che il claim di Giacobini, Reason in Revolt, è proprio lo strappare, diciamo così, dalle mani degli ipocriti le ragioni dell'illuminismo e ridarle nelle mani dei dannati della terra, cioè provare veramente a prendere anche la parte forte della rivoluzione francese per rimetterla in mano agli oppressi, agli sfruttati, eccetera, quindi costruire un nuovo immaginario. L'ambizione è farlo appunto in modo spiazzante, provando a non fare quello che ci si aspetta, a farlo in una forma fresca. Se vedete la rivista, esattamente sul modello della rivista americana, abbiamo puntato moltissimo sul lavoro grafico. Non c'è qua, ma ringraziamo a distanza, perché è rimasto a Roma, Alessio Melangi, che è il grafico della rivista, che ha fatto veramente un lavoro eccezionale. Se la vedete la rivista, poi valuterete i contenuti, ma penso di poter dire oggettivamente che la rivista è bellissima, scusate, diciamo, se lo dico, ma è così. E il lavoro che hanno fatto gli illustratori del numero, che hanno fatto veramente un grande lavoro. Così come abbiamo puntato sulle infografiche, quindi su far arrivare delle informazioni in una forma il più possibile efficace, con l'obiettivo di, appunto, come dicevo, ricostruire un immaginario, in qualche modo ridelimitare un campo di battaglia, ridividere, abbiamo detto nell'editoriale d'apertura pubblicato sul sito, ridividere anche con la ghigliottina, che appunto per noi non è giustizia sommaria, ma un modo per ridividere il campo, per ridividere ciò che è stato artificialmente unito, magari sotto il nome di popolo o sotto il nome di interesse nazionale. Invece ridividere quali sono gli interessi di qualcuno e gli interessi di qualcun altro e quelli che a noi in qualche modo interessano. E provare a ricostruire, diciamo, questo spirito rivoluzionario e rispingerlo in avanti. L'abbiamo fatto con un esperimento che ha tre particolarità che sono veramente faticose, difficili e che hanno una probabilità di successo probabilmente limitata, ma che noi ci abbiamo creduto. Ossia, innanzitutto facciamo una rivista che porta il nome di un'altra rivista e quindi ha un rapporto di sorellanza con la rivista americana, statunitense, ma che però è autonoma, quindi vive in un contesto diverso e quindi ha comunque un rapporto fecondo con un'altra rivista che porta lo stesso nome. È una rivista in cui non troverete una linea politica prescrittiva. Noi ci siamo dati un campo, diciamo, dei limiti, cioè abbiamo detto che non ci interessa il riformismo liberale da un lato e non ci interessa il nazionalismo di sinistra dall'altro, ma in tutto questo campo largo c'è una pluralità enorme di visioni e di pensiero, cioè dentro la redazione delle pagine di me che citava Sabrina ci sono molte idee diverse e le vogliamo mettere in discussione, non perché crediamo che uniamo tutto e facciamo la grande alleanza, proprio perché rimettiamo in discussione radicalmente le tradizioni storiche da cui anche i membri della redazione in larga parte provengono, diciamo, a parte quelli molto giovani anche che fortunatamente ci sono nella relazione, ma proprio per provare a ricostruire una discussione feconda, provando a stare sopra l'agone politico. Non vogliamo avere una linea politica, ma costruire, diciamo così, rielaborazione di pensiero e costruzione di ragionamento. E stiamo facendo una rivista senza direttore, che è un'altra cosa, diciamo, abbastanza inedita e faticosa. Cioè ci siamo dati una direzione collettiva, che è il desk, che diceva prima Sabrina, che prova appunto proprio a dare forza a questa pluralità, a dargli vita realmente. Tutti esperimenti difficili, ma che, diciamo, in questo inizio ci danno molto entusiasmo e voglia di andare avanti e di veramente portarlo fino in fondo il contrattacco. Ne approfitto, scusate, ma volevo cogliere anche l'occasione di ringraziare, visto che comunque spesso sarà, non voglio chiudere, spero anche che ci siano domande, però volevo ringraziare i compagni e le compagne del VAG che hanno ospitato questo festival questi tre giorni, facendo un lavoro enorme in cucina, di organizzazione. E noi come Allegre è la seconda volta che facciamo il festival qua, l'abbiamo fatto con la rivista letteraria un anno e mezzo fa e siamo veramente contenti di farlo qua. Siamo stati orgogliosi di pubblicare tra l'altro il libro di Valerio Monteventi, che abbiamo presentato ieri e che ha inaugurato la collana Working Class, e che, diciamo, questo festival, il lavoro che stiamo facendo e questa rivista è proprio il nostro tentativo di contrattacco. È difficile, ma ci proviamo, insomma. Grazie. Compagni, anche dentro la redazione, quindi mi stavo rivolgendo se i compagni della redazione vogliono aggiungere qualcosa, ma non vorrei. Vabbè, do un'altra informazione di servizio, oltre appunto a questa lista della spesa di cose, che è vero che la rivista esce come giorno il 15, quindi la prossima, il prossimo giovedì, però trovate già delle copie in anteprima. Anche qui al VAG, che probabilmente appunto le avete viste, però questo è. Ah sì, che di, ok, quindi ho altre notizie di tecniche distributive. È una rivista che uscirà sostanzialmente come trimestrale in libreria. Quindi questa, appunto, mi faccio le domande che di solito ci arrivano sia come mail che come messaggio, che facciamo come i libri. E quindi in libreria significa che se non la trovate, avendo una distribuzione messaggeria, che quindi è quella nazionale, potete ordinarla e tutto, però non la troverete in edicola. Allo stesso tempo, una cosa importante del legame tra Jacobin Italia e Jacobin è quello che appunto non troverete soltanto i nostri pezzi originali, ma ci sarà costantemente sia sul sito ma anche sulla rivista traduzioni di articoli da Jacobin. Nei primi articoli infatti ci sono i midterm, ne dobbiamo parlare, perché poi alla fine il Corriere della Sera ha parlato soltanto di come fosse vestita Alexandria Ocasio-Cortez e non ci dice che lei di fatto afferma in questa traduzione, in questa intervista che abbiamo tradotto, una cosa semplice: il capitalismo non è uno stato naturale dei rapporti di produzione, è arrivato ma se ne andrà. O cose simili. E sul Brasile, perché appunto Jacobin nasce negli Stati Uniti, a New York, però non è statunitense, cioè Jacobin è già da anni una rivista internazionale. La copertura di Jacobin sulle elezioni brasiliane, quindi su chi è il personaggio Bolsonaro prima, su qual è la crisi in cui entra il populismo brasiliano, che poi appunto è molto diverso da quello che abbiamo raccontato invece noi come Jacobin Italia dell'Argentina, che comunque ha avuto una svolta a destra e in queste settimane firma l'ennesimo memorandum di salvataggio con il Fondo Monetario Internazionale e così via. E quindi sì, troverete costantemente questo, diciamo, doppio approccio tra traduzioni e pezzi, diciamo, scritti da noi, ma anche appunto un'altra cosa molto importante. Non è soltanto che traduci quello che qualcuno scrive sugli altri paesi, ma anche proprio di dire ai compagni statunitensi, francesi o brasiliani che lavorano e contribuiscono a Jacobin, scriveteci un pezzo dal Brasile per la versione italiana, e questo è successo sia per i midterms che per la questione, diciamo, delle elezioni, del post elezioni, la lettura del, del risultato elettorale in Brasile. Quindi questa è anche appunto una ricerca che vogliamo fare, perché poi è vero che bisogna contestualizzare e raccontare un po' in che modo la complessità brasiliana, no, arriva in Italia, no? Certe cose vanno spiegate, appunto appena detto, il Brasile e l'esperienza brasiliana del periodo del PT, il Partito dei Lavoratori di Lula, di Dilma, è diverso dal kirchnerismo e quindi anche noi ripiego. Un'altra cosa che non si dice tanto, il Brasile è vero che attraverso un'espansione anche strutturalmente innovatrice e progressista, ovvero il paese che ha fatto la riforma del welfare sia per l'educazione in termini di alfabetizzazione ma di lotta contro le povertà più efficace della storia di sempre negli ultimi 50 anni. Questa cosa entra, e quindi erano soldi che venivano dati non per spenderli come ci stanno proponendo soltanto se compri il negozietto italiano, ma se fai i vaccini ai tuoi figli o se ti fai le visite mediche mentre sei incinta o se i tuoi figli stanno effettivamente andando a scuola. Quindi anche lì noi spesso riflettiamo sulla condizionalità del welfare, là l'hanno fatto in senso progressivo, in senso emancipatorio. Appena arriva l'austerità, perché effettivamente il periodo di Dilma prima di Tremer, no, è un periodo di austerità, la gente dice ma come? E allora c'è la svolta, no? C'è un'altra alleanza a destra che si consolida nel modo più reazionario possibile. E allora uno degli articoli che è già uscito su Giacobini, che secondo me è tra i miei preferiti degli ultimi 3 mesi che tradurremo, è contro l'apologia, se vogliamo, anzi l'elogio dell'anticorruzione, che in Brasile diventa uno strumento reazionario, quindi che parte dallo Stato, si ruba i soldi, sono tutti corrotti, dico, il colpo di Stato bianco a Lula è questa cosa qua, ma il movimento anticorruzione che viene utilizzato in modo reazionario per un blocco dicendo anche loro fanno schifo. Ora no, questa cosa può essere anche creata come parallelo nell'immaginario italiano, e quindi se vogliamo anche il 92, che per me è l'anno di crisi, perché c'è un patto sui salari, c'è Maastricht e altro, però è anche l'anno di Tangentopoli, se vogliamo, no? E allora è vero che Bolsonaro non è, è uscito un compagno sempre della redazione, perché appunto in realtà rimastichiamo cose che sono fatte, che Bolsonaro non è Berlusconi ma Lula non era Craxi, quindi ecco, no? Tanti parallelismi, come la raccontiamo questa complessità? Cose che, no, echeggiano nelle nostre storie, nella memoria, nella realtà che abbiamo vissuto, e che quindi spesso facciamo un parallelismo di facciata. Invece va studiato molto più a fondo. Allora, per questo anche il coinvolgimento di nodi e reti internazionali a cui fortunatamente abbiamo accesso, perché poi come soggetti componenti della redazione la ricchezza non siamo soltanto noi, ma anche, no, quei come dire, livelli di interazione che abbiamo con altre persone, dico appunto 4-5 di noi vivono all'estero, penso a Sara Paris, penso a Francesco, penso a me stessa, a David, che, no, che vive in Italia, però porta davvero una traduzione, un bagaglio di una persona che ha deciso di studiare l'Italia. E anche lì, no, è un momento di visione diversa. Vabbè, io vi sto intrattenendo, ma davvero potrei continuare finché non finisce la birra, quindi vorrei evitare. Se David vuole aggiungere qualcosa, o se no continuiamo volentieri a bere. Sabrina? Ah, ottimo. Io vorrei fare una domanda. La famosa, il famoso giro di mail vostre interne, che però mi sembra riguardino temi non personali ma assolutamente politici, che riguardano il vostro lavoro di redazione, perché non lo mettete un po' in fila, cavando via naturalmente le parti un po' superflue, che lo rendete disponibile sul sito? Allora, questa cosa è tipo una minaccia, insomma, nei vostri confronti più che nei nostri. Poi uno può decidere se No, però è interessante, perché in realtà è una discussione che poi è quella che alimenta la costruzione e le idee su come noi pensiamo e programmiamo i pezzi, non soltanto del cartaceo, ma soprattutto nell'alternanza dei pezzi per il sito, quindi degli articoli e gli approfondimenti. Quindi in realtà quelli sono, no, come dire, il canovaccio di brutta che butti là, flusso di coscienza, risposte, costruzioni, e poi si montano. Cioè, da un flusso di mail che ha un unico thread molto disordinato, quindi potete immaginare la confusione, si producono, no, gli articoli, arrivano altre idee. Cioè, dopo aver letto le mail, qualcuno scrive il giorno dopo con una mail completamente diversa e dice: ah, ma ti hai fatto venire in mente questo, sai, ma c'è questa persona che può scrivere di quella cosa che si lega perfettamente a. Io cioè, una proposta molto appunto minacciosa nei confronti dei lettori più che nostra, però è vero che di quelle mail lì no, c'è la creazione che poi è quella che viene assorbita nella produzione di fatto quotidiana che stiamo appunto ambiziosamente provando a tenere per il sito. Cioè, è vero che sono cose che si sono proprio poi materializzate in una discussione, e anche lì forse questa cosa è interessante, come dire, è vero, come diceva Giulio, non c'è la linea politica, no? Cioè non ci interessa, ci sono delle chiavi di lettura di fondo, appunto. Qual è il campo e chi è il nemico, come a dire, ci hanno sempre imposto il nemico esterno, l'immigrato o appunto il livello locale contro il livello centrale, il livello nazionale contro quello europeo, però non ci hanno mai detto chi è che governa questi processi, che è una questione di classe, non è una questione di colore della pelle, colore dei capelli, credo religioso, eccetera, eccetera, eccetera. Non so come aiutarti. Ce la fai a parlare un po' senza microfono? Sì, avrei una domanda sulla retorica, perché avete detto lei prima che si cerca di costruire un nuovo immaginario, no? E che vorrebbe distaccarsi da quello del Novecento. E allora mi sono chiesto, ma è veramente una domanda aperta, e non è una critica, ma aperta, sulla parola, cioè sull'indirizzare la gente con compagni e compagne. Che qui ovviamente tutti sono d'accordo, è facile qui. Cioè, avete riflettuto... Vabbè, vado al volo, nel senso di guarda, su questa cosa la risposta secondo me migliore non la leggo perché è lunga, è l'editoriale con cui apriamo il sito, ovvero la citazione di Jack London che fa, no, questa relazione durante una conferenza, e tutti si aspettano ovviamente lo scrittore erudito, invece arriva lì chiamando tutti i compagni e compagne, spiegando l'esigenza anche di un'appartenenza, di una condivisione. Quindi rimando a lui perché è una riflessione, poi come sempre le citazioni sono complicate, però appunto come diceva qualcuno, se non sbaglio era proprio De André, meglio usare la citazione perché ha saputo dirlo meglio di noi, allora la citazione di Gramsci è esattamente quella cosa che noi meglio non avremmo potuto dirlo. Allo stesso tempo però è vero che la retorica non tanto dei compagni e compagni, ma magari se io che sono una fissata, lotta di classe, non ho bisogno di dire lotta di classe tutte le volte che devo identificare quel processo, ma no, ragionare, raccontare, spiegare, narrare, se vogliamo anche no, sviscerare determinati fenomeni e conflitti che poi, da cui poi emergono, no, le posizioni contrastanti, conflittuali, antagoniste. E quello secondo me è anche uno dei modi, no, per non necessariamente, diciamo, dopodiché, come dire, c'è anche quella cosa, diciamo prima, rispetto al Novecento, hanno 20 anni, quasi, anzi maggiorenni, le persone che sono nate nel 2001, il 2001 per l'Italia è un momento storico, ma è anche l'entrata, se vogliamo, nella moneta unica e quant'altro, ma davvero pensiamo che le nuove generazioni abbiano così tanto sentito parlare di comunismo, se non appunto in una relazione che poi è anche revisionista, ce lo spiegavano i compagni di Nicoletta, compagni di nuovo, scusate, mi fa piacere perché davvero quello sono, prima. E quindi questa cosa qui, come diceva anche David rispetto al caso di Jacobi, cioè il socialismo, il marxismo, l'internazionalismo, come dire, sono delle parole che ci sono state rubate. E di cui invece andiamo fieri, orgogliosi, riprendiamocele. L'ideologia, tutti, quando affrontiamo, io sono occupata di mercato del lavoro, no, per anni, dice, ah, ma lei è ideologica, vuole i diritti per i lavoratori. Ho detto, certo, ma perché lei che non li vuole non è ideologico, come a dire, la visione di mondo che abbiamo, allora perché dobbiamo noi sempre mascherare, trovare altre parole, mentre loro vanno dritti? Però per esempio su questa cosa, bellissimo, nel numero ci abbiamo ragionato. Le parole contese, fino a 4 anni fa quando parlavamo di riforme del lavoro si parlava di flessibilità e innovazione, negli ultimi due anni nessun politico ha più usato il termine flessibilità, ma ha cominciato a parlare di precarietà, cosa che noi dicevamo da 15 anni, che invece noi abbiamo fatto l'altro avanzamento, no? Ci siamo detti non è neanche precarietà, è sfruttamento. Scusate l'autocitazione. Però è così. E allora reddito, no? Si è fatta una battaglia, si è messa in discussione, vuol dire appunto anche là la pluralità del... Non è che siamo tutti d'accordo sullo schema di reddito, ma non hanno più potuto fare a meno di parlarne. Nel loro modo sbagliato, reazionario alla fine, oltre la retorica che c'è stata, la retorica loro, però era un terreno, come dire, nostro, che loro hanno trasformato, l'hanno acquisito e l'hanno poi risputato in maniera reazionaria e conservatrice. E su questa stessa cosa, diseguaglianze. Diseguaglianze è la parola che da qua a 5 anni ci sarà rubata, quando hai un altro terreno di conflitto, di narrazione, di descrizione del reale. E allora stiamo attenti, cioè, nel senso, noi evitiamo di tenercele queste parole, no? Anche queste etichette, per paura che siano troppo connotate. E poi sta finendo che se le accaparrano, che le usano loro, perché effettivamente è quella cosa lì. Però gli danno un altro contenuto. Quindi ecco, cioè è una cosa complicata. Ah, vai. Piano piano. Quanti minuti abbiamo? Ciao. Cercherò di essere il più conciso possibile. No, ho un po' di difficoltà perché da un lato mi sembra che evidentemente ci sia una posizione politica di parte, diciamo, legittima e anche condivido, e dall'altro c'è questa, come dire, questa ambizione, questa, diciamo, pretesa, no, di essere, di non avere una posizione politica. E prima, diciamo, i due argini dentro cui, diciamo, si dovrebbe muovere la discussione erano il neoliberismo, chiamiamolo così, e ho sentito il sovranismo di sinistra. E vorrei capire meglio cosa, come dire, posto che mi sembra che una delle contraddizioni maggiori in cui la sinistra si trova a doversi confrontare sia una certa rinascita di fratture fratture, diciamo, di tipo internazionalistico o interimperialistico. Ecco, volevo capire cosa definivate, insomma, cosa avevate in mente con il sovranismo di sinistra. Anche perché, come mi sembra, il termine, questo termine giornalistico, che io non fino a 4 mesi fa non so di che cosa si stia parlando, volevo capire di che cosa si stia parlando. L'aiuto al pubblico. Brevissime, perché veramente non abbiamo tanto. Questa è una cosa molto importante. Non era il sovranismo di sinistra, no, in quei paletti, era il sovranismo di destra nazionalista, no? A cui... Scusa. Provo a rispondere alla domanda. Allora, è una discussione che chiaramente tra di noi abbiamo fatto. In realtà il sovranismo non è una categoria della politica. Una categoria della politica è la sovranità. Il sovranismo è una tendenza macchiettistica a ricoprire la categoria politica della sovranità in termini appunto nazionalisti o declinata su quel piano. Quindi in Jacobin troverete sicuramente una definizione, un'articolazione del concetto di sovranità, dentro anche a un'analisi critica dello Stato. Analisi critica dello Stato significa dire che lo Stato non è una cosa ma è un rapporto sociale e quindi è un condensatore di rapporti sociali. E che la sovranità è la cosa più importante per noi, è chi la esercita, la sovranità, in quali forme la esercita, in quali rapporti sociali la esercita. Quindi la nostra necessità è quella di chiarire questi concetti e di uscire dalla polarizzazione macchiettistica in cui vengono oggi rappresentati nel dibattito politico, che è un dibattito politico, a mio avviso, anche a sinistra molto macchiettistico e che non restituisce il senso di questi termini, di questi concetti. Sì, forse dobbiamo chiudere, sono almeno un quarto. Sì, se non ci sono altre questioni, chiudiamo. Una domanda, l'ultima facciamo, ok? Grazie. Io volevo chiedervi, non so se provocatorio o banale, come vede la redazione di Jacobin il ruolo degli intellettuali in questo momento storico, se vi sentite riconosciuti in una categoria di questo tipo e come pensate di poter esercitare un eventuale ruolo di questo tipo senza cadere nell'essere né un'avanguardia, un accumulatore di potere, eccetera, eccetera, eccetera. Francesco, qualcuno? Lorenzo? No. Francesco vuoi dire qualcosa? Francesco Massimo. Ciao, sono uno dei cosiddetti giovani della redazione e ma personalmente posso partire da un esempio abbastanza personale, cioè che riguarda, che è legato anche all'articolo che ho scritto insieme a Simone. Noi due veniamo entrambi da l'articolo sull'emigrazione italiana, no? Veniamo entrambi da un'esperienza di emigrazione, nel caso di Simone un'emigrazione interna, nel caso mio un'emigrazione interna all'Unione Europea. Una migrazione che nell'ambito della formazione che abbiamo avuto potrebbe essere casellata come una migrazione intellettuale. E in realtà già noi figuriamo, no, tra quelle forme che anni fa sarebbero state definite di connitariato, eccetera. Quindi io penso, cioè dal mio punto di vista credo che sia una frontiera quella tra intellettuale e masse, che noi cerchiamo, che noi da un lato è sociologicamente in crisi, perché per esempio le grandi migrazioni di massa che sono adesso in corso nell'Unione Europea sono fatte da forza lavoro che è qualificata, oltre a quella non qualificata, ma che subisce un processo di proletarizzazione, e allo stesso tempo è una frontiera che noi cerchiamo di abbattere, cioè dando la possibilità attraverso momenti come sono le discussioni, come possono essere i gruppi di lettura a cui siamo stati, che si stanno organizzando, a cui siamo invitati, per cercare di far sì che i concetti che noi affrontiamo e cerchiamo di risignificare siano messi a disposizione di quelle che vengono chiamate massa, no? E, non so, quindi David voleva. Ovviamente in un certo senso è vero che nella redazione della rivista ci sono molti giornalisti, ricercatori e persone che hanno il ruolo sociale di pensare e di scrivere. Però è una nostra ambizione anche di andare oltre, no? Anche di dar voce a chi che non svolge questo ruolo nella società, no? Questo è sempre stato un aspetto molto importante in tutta la storia della storia del movimento operaio, no? Sin dagli inizi, un'enfasi sulla formazione, sul fatto di dar voce a chi di solito non ha il ruolo, non ha questo ruolo. Ovviamente in qualche senso si potrebbe dire che il problema degli intellettuali italiani non è che siano un'avanguardia, ma che non hanno la capacità di liderare nessuno, no? Tipo parlano a se stessi anche in un linguaggio molto opaco, un po' come il mio italiano, no? Tipo è un pregio della nostra rivista di Jacobin è di affrontare temi, idee complesse, però in un in un linguaggio accessibile, però anche in uno stile un po' pop, e quindi anche per dimostrare la nostra voglia di parlare anche a fasce più larghe della popolazione. Quindi noi abbiamo questa volontà. Per me, tipo, sulla domanda su pubblicare i nostri email, penso che questo tipo di trasparenza non è molto importante, tipo la produzione stessa della rivista, anche nel senso, ad esempio, tipo, mi piace molto la gorgonzola, però non volevo vedere l'allevamento della mucca. Non facciamo finto di essere d'accordo su tutto, però in un certo senso è sensato anche tipo che noi lavoriamo insieme per trovare una nostra cultura per poter superare ogni tipo di settarismi dicendo tra noi, quindi per me questo aspetto non è tanto importante, però è anche importante che sì, siamo aperti anche a proposte, anche da tipo anche di non solo di proposte per articoli, però anche tipo sul feedback sui riscontri dei nostri lettori. In questo senso per esempio sulla rivista americana. Sì, pubblichiamo la quarta pagina di ogni numero, si intitola The Internet Speaks, parla l'internet, e su questa pagina pubblichiamo tutti i commenti negativi lasciati sulla nostra pagina Facebook, e quindi spero di fare qualcosa così anche in Dario. Le domande e grazie di nuovo al VAG per averci ospitati e bocca al lupo a noi, insomma.